io appartengo a una brutta razza. Io ho l'arte e l'altri mi mettono da parte. Io appartengo a una brutta razza. So sempre quanto ho in tasca. La somma precisa e risicata. E lo sanno pure l'arte. Come se fa a riconoscere uno che non c'è una lira? Sona. Fa rumore. È il tintinnio degli spiccioli che per quanti porno esse so sempre pochi. Lo spicciolo non è la moneta, no. È la risposta a un rompicavo, perché tu stai lì a cercare dei capi che ci vuoi comprare, in quella cifra che ci puoi fare entrare. Spigni che te rispigni, ma non c'è sta niente da fa, o non ce va. A me, che ci stanno certi giorni che mi pare di trovare la poesia dappertutto, dici che ci fa la poesia, ma a me mi piace fare la spesa, frugare fra la frutta, comprare pane scrocchiarello, a Rosetta, da calare dentro al sugo di mia nonna. Poi non so a voi, ma a me mi piace mia nonna, eh. Lei mi racconta che Roma ne ha visti dei lavoratori. E poi c'è chi dice che siamo fannulloni, eh. Pensa, ci stavano certi lavori, si erano proprio specializzati, si inventavano proprio una cosa nostra. C'era il mosciarellaro. Il mosciarellaro, insieme alle castagne, le mosciarelle, veniva li mosconi verdi, li prendeva dai fiori del sambuco, gli legava un filo allo zampino e li faceva volare come fossero aquiloni. Poi c'è stava il venditore d'inchiostro, e quello mica parlava, quello grugniva, faceva una cosa tipo: inchiostro scrive, inchiostro scrive. Poi c'erano i ferivecchi a Piazza Navona, la picciafogo al ghetto e l'anticagliari a Campo da Fiori. Poi gli svegliatori, c'erano pure gli svegliatori, correvano a bussare i viaggiatori per non fargli perdere la diligenza la mattina. Insomma, la città era tutta un suono e non ti sentivi mai da solo. Oggi invece, se vuoi cantare, dipingere o recitare, uno spazio te devi trovare, tu devi comprare, te devi arintanare, ma chi te vedrà? E all'artisti la rendono dura, ma alla gente gli fanno peggio. Alla gente gli elevano la cultura. E senza cultura, o dice la parola stessa, la terra si fa arida e dura. Io almeno so l'arte. So inutile, quello sì, ma non so ignorante. Che poi al principio pure io volevo lavorare, eh. Ma non per lavorare davvero, ma per avere una risposta da dare, perché ogni qualvolta ti chiedono tu che fai una vita e tu per risposta dici io faccio artista, sì. Quello rimane lì, fermo, aspetta che ne dai un'altra. Lo so, sono compreso da sti individui grigi che il lavoro l'ha ingobbiti, che non si ricordano dei sogni che facevano a pupille spalancate, hanno firmato un contratto che non è un contratto, è un testamento. Grigi le sue facce, grigi i salotti, grigie le cucine quando tornano a casa la sera. E il grigio è peggio del nero, perché il nero da cieca, ci puoi combattere, il grigio no. E il grigio t'abitua. Ma non stavo meglio noi che quando esce il sole a Roma ci si fa la doccia, ci si imbalsamamo tutti e coi raggi si famo gli fumenti? E poi io non sto a pensare sempre ai soldi, perché il denaro è una malattia, te si attacca e te beve il sangue. Infatti nasce da una madre che si chiama Zecca. Insomma, a Roma Dio non è Trino, è Quadrino.